sono le ore 8:54 di lunedì 16 aprile 2018. Fa un certo effetto dirlo dopo, credo, 7 anni, adesso dovrei fare i calcoli, dall'ultima puntata della terza serie di Pendo Deliri. Io non sono affatto sicuro che questo sia il primo episodio della quarta serie, sto facendo solo delle prove tecniche con tante diverse soluzioni. Questa è davvero abbastanza artigianale, quella che sto usando adesso. Comunque il punto è che sono accarezzato dall'idea di riprendere, perché questa forma del podcasting non è affatto scomparsa in tutti questi anni, anzi si è molto sviluppata, e dopo un momento in cui sembrava che le radio ufficiali dovessero prenderne possesso, mi pare di vedere che anche parecchi podcast indipendenti stiano scrivendo delle belle pagine, e quindi perché non riprendere. Però non sono sicuro, soprattutto non so se riesco a fare un investimento emotivo e razionale in una cosa che in passato ha significato tanto per me. Però intanto, siccome appunto ci sono un po' di cose da dire, anche solo come prova, sto registrando un episodio, che è quello che state ascoltando, e di ritorno dal Festival del Giornalismo, che si è chiuso ieri. Come sempre splendido il clima, direi, soprattutto nella formula vincente di questo festival, oltre alla straordinaria energia e competenza e passione di Arianna Ciccone e Chris Porter che lo organizzano, i volontari, lo staff tecnico. Anche quest'anno lo streaming è stato fantastico, anche migliore degli anni precedenti, con immagini in alta risoluzione e a 60 frame per secondo. Ne parlavamo ieri con Fabrizio Ulisse, che se ne occupa da anni, ed è una sfida non indifferente, che però loro puntualmente vincono, e che ci permette tra l'altro di poterci vedere tutti questi panel nei prossimi giorni, mesi, perché di sicuro non invecchiano anche a distanza di tempo. Formula direi fondamentale è l'elemento internazionale, cioè il fatto che esistano tutti questi panel che ci fanno guardare fuori dal nostro mondo dominato, dal nostro teatrino politico-mediatico, sia nei contenuti, sia nelle forme e nelle modalità. All'estero si fanno esattamente tutte le cose che qui si dicono soltanto: data journalism, fact checking, tutto quello che qui da noi non funziona, bene, ci viene raccontato dalla viva voce di chi tutti i giorni lo mette in pratica in un modello che chiaramente magari forse da noi non è possibile, perché da noi trionfa esclusivamente l'infotainment, mentre altrove l'informazione corretta, l'informazione anche moderna, verrebbe da dire, è il prodotto, è un elemento competitivo, soprattutto in un'industria realmente competitiva. E non è solo un modo per sfuggire naturalmente al nostro teatrino mediatico, ma anche, io credo, un modo per, almeno per come sono fatto io, con tutte le mie introversioni, anche per nascondermi, perché dal punto di vista sociale può essere molto bello naturalmente, ma anche stressante incontrare qualcuno che conosci ogni 5 metri, e di qui anche la boutade per cui certe volte sono costretto a fare le stradine laterali, perché semplicemente non riesco a gestire socialmente così tante persone, a cui tra l'altro voglio anche molto bene, però siccome sono tutte lì in quel momento, io vorrei parlare con loro per un'ora davanti a un bicchiere di vino su un tavolino, invece mi ritrovo a dover urlacchiare delle frasi di circostanza, dello small talk in mezzo a tante altre persone, è esattamente l'incubo di ogni introverso. Quindi mi scuso ancora una volta con loro se sembro sempre così sfuggente, ma è un tratto del carattere che alla mia veneranda età ormai dubito si possa cambiare. E i panel che sono riuscito a seguire di persona quest'anno, io non ho parlato in nessun panel, sono andato tra l'altro anche in modalità molto turistica con al seguito tutta la famiglia. Credo che sia stato molto istruttivo soprattutto per Maria, mentre Barbara ormai è una veterana del festival, nel senso che che è molto, segue molto e anche molto più di me, ha una resistenza incredibile nel seguire l'evoluzione dell'attualità politica, quindi complimenti a entrambe. Questo comunque non è banale, per esempio portare una ragazza di 14-15 anni a sentire gli adulti che parlano durante il weekend, e lei non ha dato segni di noia, questo mi sembra molto bello, e penso che forse dovremmo dare una chance in più davvero alle nuove generazioni, che ci immaginiamo sempre completamente schiave del loro mondo alternativo, quando in realtà se le abitui a essere curiose, a farsi una propria idea su quello che succede, può funzionare. Credo che il grosso merito di tutto questo sia soprattutto della madre, che non smetterò mai di ringraziare per questo. E sempre tornando, tanto non l'avete potuto vedere, questo è uno degli aspetti tutto sommato belli del podcast, ma ho appena rischiato la vita perché c'era un camion che ha fatto una manovra davanti a me assolutamente imprevedibile. Comunque adesso ce lo siamo lasciati alle spalle, anche dal punto di vista dell'impatto emotivo. E i panel che ho potuto seguire di persona, fatalmente mi sono fatto seguire anche, mi sono fatto, diciamo così, prendere dalle amicizie. Io ho sentito volentieri le persone a cui sono più legato, che però, almeno per quanto mi riguarda, sono anche tra le persone più competenti. Ho seguito il panel di Mafia De Baggis sulla fiducia, e Fabio Giglietto sulla fiducia degli italiani nel sistema dell'informazione, dove i due hanno fatto di tutto per non pronunciare la parola fake news, ma è stato impossibile evitarlo, mentre molto bravo Alberto Pugliafito, che ho avuto finalmente il piacere di conoscerlo in un workshop nella sala sotterranea dell'Hotel Bruffani, ci ha coinvolto anche in modo molto divertente proprio in una sorta di esperimento sociale che era relativo alla nostra incapacità, diciamo così, di costruire narrazioni diverse rispetto a quelle dominanti, ed è riuscito persino a farci costruire una storia in cui in Star Wars il cattivo era Luke Skywalker e il buono era proprio Darth Vader. Niente male, consiglio a tutti di vedere questi due panel in streaming se vi capita. E poi chiaramente ne ho visti parecchi anche da quelli internazionali, ma adesso sono arrivato alla stazione, è finito il tempo e tragicamente mi trovo costretto a salutarvi.